io sono come sono, un pugno nel vuoto, un albero caduto, un filo in un prato, un quadro girato, un'ombra sul muro, una pioggia scarlatta caduta sopra casa tua.